America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bene, le borse hanno continuato a correre, gli indici di borsa americani almeno hanno continuato a correre, c'è un'atmosfera, un umore tutto sommato positivi, anche i dati economici cominciano ad essere rassicuranti, la Fed tiene la sua politica monetaria invariata almeno fino alla fine dell'anno, almeno così ci è sembrato di capire dalle ultime dichiarazioni del Federal Open Market Committee, il comitato monetario della Federal Reserve, e dalle dichiarazioni di Ben Bernanke, il governatore, il presidente della Banca Centrale Americana. Ecco, qualcuno si può chiedere, ma quanto avranno guadagnato gli investitori americani in questo periodo? Beh, ovviamente dipende se sono entrati quando l'indice Dow Jones intorno al 2009 dopo la crisi era intorno a 6.700-6.800, beh, hanno guadagnato un bel po'. E se invece non hanno venduto quando l'indice Dow Jones era ai massimi a circa 14.000, hanno avuto qualche anno di difficoltà e adesso hanno appena recuperato i loro ricavi. Insomma, l'essenza poi dell'investimento è proprio nel timing, quando si esce, quando si entra, quando si vende, dove soprattutto si investe nel momento in cui si decide di rientrare. E naturalmente dice, a saperlo bisognerebbe avere la palla di vetro, però sappiamo che ci sono una gran quantità di investitori che si appoggiano a esperti del mercato, si appoggiano a analisti, coloro che hanno più mezzi, hanno dei conti con delle banche importanti che danno ulteriori consigli, e dunque c'è la sensazione che forse chi ha una disponibilità di denaro superiore a quella media o addirittura a coloro che ne hanno relativamente poca, e magari riescono a fare delle performance migliori. Vero? Falso? Con me ai microfoni di America 24 Enrichetta Ravina, professoressa di finanza alla Business School di Columbia University. Buongiorno Ravina. Buongiorno. Ho visto che lei ha fatto uno studio molto interessante sulle decisioni di portafoglio, le decisioni finanziarie di portafoglio delle persone che hanno, come si dice, un high net worth in America, e cioè che hanno, diciamo, dei mezzi piuttosto importanti. Lo studio mi sembra importante perché lei lo ha guidato, ma vedo che c'è anche Luis Vinceira di Harvard Business School e anche Ingo Walter, che è un noto professore della NYU Stern School of Business. Ecco, da quello che ho letto dal vostro studio, insomma, si deduce che, sì, è vero che i ricchi, diciamo così, possono avere più mezzi, però poi tutto sommato non è che fanno molto meglio di quello che è l'investitore medio. Sbaglio? Questa è una delle vostre conclusioni? Sì, questa è una delle nostre conclusioni. Che la interrompo subito, perché voglio dire ai nostri ascoltatori che il vostro studio è basato, e qui, ragazzi, chi in macchina, chi a casa, insomma, tenetevi stretti, perché è basato su un campione di persone che ha, diciamo, un patrimonio medio di 90 milioni di dollari, quindi diciamo sono ricchi forte. Sì. E uno si aspetta che chi ha un patrimonio di 90 milioni di dollari, cioè quelli, figurati, hanno tutto, sanno tutto, hanno le porte aperte, sono in combutta con i banchieri. È vero o anche i ricchi piangono? Ogni tanto anche i ricchi piangono. Quello che troviamo è che nel periodo di studio, dal 2000 fino alla fine del 2009, i ricchi diversificano il loro portafoglio, sono molto attenti alle tasse, bilanciano il loro portafoglio quando le opportunità di investimento cambiano e hanno accesso a investimenti come private equity, hedge funds e commodity a cui il normale investitore non può accedere. Tuttavia, quando guardiamo la loro performance, vediamo che a causa del fatto che seguono le mode e investono in mortgage-backed securities e hedge fund, quando c'è un boom fanno molto bene, ma perdono anche molti soldi quando il mercato corregge. Allora, siccome sospetto, immagino che la grande maggioranza di chi in questo momento ci sta ascoltando è lontanissima anni luce forse dall'avere un patrimonio di 90 milioni di dollari, perché non diamo qualche consiglio di investimento o qualche saggia idea di come allocare il portafoglio a chi ci sta ascoltando in questo momento? Quello che possiamo imparare dai ricchi, secondo il nostro studio, è che è molto importante diversificare. Tutti pensano di sapere qualcosa su un'azione oppure un'altra, ma moltissimi studi dimostrano che il modo migliore per avere un ritorno stabile relativamente alto è investire in indici e molte azioni. Quindi investire, non investire su un titolo o su un gruppo di titoli, ma investire sull'indice di borsa. Cioè, come si investe sull'indice di borsa? Si compra l'indice direttamente oppure si comprano, diciamo, si suddivide l'investimento fra tutti i titoli che compongono l'indice? Quello che fanno i ricchi è suddividere l'investimento tra tutti i titoli e questo dà loro un vantaggio dal punto di vista delle tasse. Tuttavia, coloro che hanno a disposizione un patrimonio più basso o vogliono investire meno, fanno meglio a comprare un ETF, Exchange Traded Fund. È un indice che investe per noi in moltissimi titoli e allo stesso tempo mantiene le spese abbastanza basse. E qual è il limite secondo lei? Diciamo, se io ho, non so, 30.000 euro, 50.000 euro, che non so che farne, 100.000 euro, ecco, posso fare qualche cosa? Quello che i ricchi farebbero sarebbe investire intorno al 50-60% in indici. Un indice del mercato in generale, quello che fanno negli Stati Uniti è l'S&P 500 e ogni tanto comprano small companies, sempre indici, 30% investiti in bonds, sia bonds del governo, sia bond delle municipalities. Qui negli Stati Uniti c'è un vantaggio dal punto di vista delle tasse a investire nei titoli emessi dalla città di New York, dallo Stato, piuttosto che dal governo federale. Il resto viene investito nei cosiddetti investimenti alternativi. Angel investing, quando diamo un piccolo investimento iniziale per le nuove imprese, oppure private equity, dove ci sono imprese più grandi, o hedge funds. E questa è la parte che è più difficile da imitare per un piccolo investitore. Più difficile da imitare perché richiedono dei tagli minimi, magari di 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di dollari, no? Sia hedge fund che private equity fund. Ecco, fino a che punto siete arrivati? 90 medio, però la persona che aveva più mezzi, quanti ne aveva? Ne aveva 280. 280, quindi non siete andati nei ricchissimi, cioè nei miliardari? No. Sono un'altra categoria? Sono un'altra categoria. Quelli fanno meglio, diciamo, i ricchissimi rispetto ai ricchi, come fanno? I ricchissimi fanno meglio dei ricchi perché stanno più attenti ai cambiamenti nei mercati, non si dimenticano del loro portafoglio e quindi riaggiustano le proporzioni investite nel mercato azionario piuttosto che nei titoli di Stato o in altri tipi di investimenti nel tempo. Questo è uno degli errori più grandi che i piccoli investitori fanno. Comprano un portafoglio e poi lo lasciano stare e non fanno più aggiustamenti col passare del tempo. Perché c'è questa funzione di rapidità e di reazione in diretta relazione alla grandezza del tuo patrimonio? Potrebbe essere per due motivi. I ricchi che hanno un patrimonio più alto ricevono migliori servizi dai loro advisors. Non dimentichiamoci che queste sono persone che in media hanno 5 o 6 persone che lavorano per loro e per il loro portafoglio finanziario. Un'altra possibilità è che persone che hanno più mezzi sono meno spaventate dal rischio e, come dice Warren Buffett, bisogna essere timorosi quando tutti gli altri sono esuberanti e bisogna essere decisi quando tutti gli altri hanno paura. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.